YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. E alla terza ora del sabato del villaggio diventa Radio Tube un po' come un ovetto di Pasqua. Diventa Radio sorpresa. Tube non effetto notte, è un Radio sì, Tube un po' effetto notte. Un po'. Questa settimana mi sono esibita anche qualche sera, vabbè, insomma, tra colleghi ci si può dare una mano. C'è stato Certo, ci si deve. Sì, infatti abbiamo fatto anche un po' di... Salutiamo. Sì, salutiamo Roberta, abbiamo fatto un po' di effetto notte, inevitabilmente che era un po' sabato del villaggio, un po' Radio Tube. Vabbè, ma perché... No, c'era no. Molto cinema, no, teatro. Ma no, perché? Cioè, così... erano tutte notizie molto molto culturali. No, no, no, anzi, guarda, ho parlato di politica, ho parlato di esteri, mi sono ricevuta tutti i messaggi di insulti di quelli: sei troppo grillina, dai, sei poco grillina, sai che è così. E invece parli tu male quanto, del PD, parli bene sì. del PD. Non, guarda, non se sa. Vuoi, dopo parliamo di politica. Sì, intanto parliamo del personaggio della Belliamo settimana. Parliamo di politica dopo. Dopo, ma prima... Allora, parliamo del personaggio, chi è il personaggio della settimana? Vabbè, ma nel è bene ovvio. E nel male? No, è ovvio per tutti, il personaggio di questa settimana qua è... Sentiamo Morgan. Un pezzettino. Si sa. Sono deluso da Maria De Filippi, vi posso dire che sono altamente deluso e gli ho scritto questa cosa, Maria De Filippi. Era troppo per te avere a fianco un modello positivo, finalmente autentico, dopo tutti questi anni di fuffa? Perché l'hai distrutto? Cos'è, ci hai avuto paura di perdere il dominio? Ma non dovevi temere, la mia grandezza sta proprio nel fatto che a me non interessa, a me non interessava. Anziché elevarti con me, divertirti, divertire anche qualche gente, qualche persona del pubblico, finalmente sei scaduta ai miei occhi nel ruolo della strega di Biancaneve. Un gran peccato, virgola, una delusione. Allora, questo capito. Video l'abbiamo trovato su Corriere.it, in realtà devo dire che questo... è il video, cioè è il pezzettino in cui la tocca è quello soft. È quello diciamo dove cerca di dare una spiegazione logico teatrale, artistica, perché, anche perché un po' leggeva, aveva scritto un testo, sembra sì, un po' infatti sì. anche un pochettino poi recitato, però poi lo difendo però. Poi l'ha toccata un po' più... più forte direi, sentiamo cosa ha detto dopo. Sentiamo un altro pezzettino. Possiamo mandarlo? Ma proviamo. Lì, dove stavo prima, a Mediaset, non c'è una persona che ha una competenza musicale, non c'è persona che ha competenza didattica, non c'è persona che tratta i minorenni. Questi sono gli schiavi, signori. Io una cosa del genere non l'ho mai vista. Stiamo parlando della tratta degli schiavi. Lì hanno altri scopi e sono solo mercantili. E vabbè. Poi ancora qui la tocca ancora piano, perché poi usa delle espressioni ancora un po' più forti, si scaglia direttamente contro Maria De Filippi. Diciamo subito che Mediaset ha dato mandato ai suoi legali di agire contro Morgan, quindi cerchiamo di andarci un po' cauti perché ci sono anche delle cose legali di mezzo. La difesa è ovvia. Io lo so che tu poi sei un po' per Morgan. Io sono molto per Morgan. Chissà quante volte ti avrò chiesto: ma chiamiamo Morgan? E tu mi hai detto: sì, però poi dopo ci dà buca, il telefono magari non c'ha voglia. Allora, è estemporaneo. Parlare è con un artista. Morgan è sempre molto bello. È un artista. Però è un artista. Se tu chiami quindi Morgan, lo conosco non da è tanti che... anni. Perché... anche perché poi siete lì delle esatto, parti. Esatto, siccome siamo compaesani, le brigate rivoluzionarie Brianzole. Lo conosco da circa 30 anni, quindi non avendoli è anche però abbastanza... se lo chiami è Morgan, cioè se tu vai e quindi non può essere un altro. Ma non è che ha esagerato in questo, non ha usato espressioni un po' troppo... dall'altra parte Morgan se va lì ci sono le regole quello, di lì è lo so. Quello, cioè però... dire che è mercantile ho capito, però è televisione, non lo so, io ho un po' la sensazione un po' la sensazione che i talent siano in quella fase in cui il talent, non so se è poi esatto dire per questa trasmissione, è proprio un talent. E sono in quella fase lì, non si può dire di inizio del declino, però di inizio di che troppo stroppia, per cui sempre più devi far casino, sempre più devi inventare delle cose e quindi devi inventare che viene, no? Morgan che poi va, insomma, non lo so. Devo dire che ci sono state tantissime musicalmente voci. Però francamente Morgan è no, Morgan, ma lui è anche Morgan, quando parla, quando spiega le cose di Bowie, per esempio, per a dire me hanno divertito un po' tutti i messaggi di sostegno a Maria De Filippi in rete, non perché, ma perché alcuni odoravano proprio di autocandidatura. Sì, al posto questo. Ma sì, poi Maria ci sia. Comunque sì, se volesse Maria Io l'ho fatto volta al giudice d'amici, perché no, sì, cioè non vai solo a TV Talk, no, non ma fai solo ma Effetto anni Nota fa ho fatto... ma dai, non lo sai, no, ma sì, non abbiamo il video, Christian, in diretta la prossima puntata lo troviamo un pezzettino. No, non mica dobbiamo mandare solo Bellasio che litiga con Emiliano, mandiamo anche un video, sì, della Cagnola, tanti anni fa, una volta sola, poi si devono essere spaventati, ma l'ho fatto. Sì, allora sì, non vanno i Brianzoli, diciamo. No, i Brianzoli, quindi... non vanno. Altro personaggio della settimana? Non lo dai, so, io non voglio ho la scaletta. Sapere aspetta, che cosa che ne pensi. Sì. Allora, EPCC. E poi c'è Cattelan. C'è stato ospite un calciatore che sono sicura a te piacesse moltissimo, che è Bobo Vieri, e si è lasciato andare ad alcune confidenze. Aspetta che prendo nota, mi sa che devo prendere appunti di quello sì, che sta per prendi dire. Appunti, grazie, prendi Ramiro, appunti. Prendo appunti. Ti propongo un Bomber Advisor. Come Trip Advisor tu mi dai una valutazione così veloce, mi dici sì, no? Mi dici se in quella determinata località sei stato, se sei stato bene, okay, quante stelle, ristrutturata, non ristrutturata, com'era la cucina, quelle cose lì. No, no, qua dietro non c'è niente, te lo giuro. Sì, vai, questa. Ho solo un'amica. Ah, vabbè. Sicuro. Questa sì. Siamo su. Beh. Tre anni bene. Tre anni bene. Sì. Stelline? Cinque, dai. Bello, brava, brava. Una iena ma distrutto veramente, ha spaccato no, in due. Allora, cioè, allora non ci ho capito niente, io dico sono una grande fan di EPCC, voglio molto bene Alessandro Cattelan, Vieri mi è anche simpatico, però no, cosa ha fatto? No, ma non ci ho capito niente, spiega come se io non avessi, perché non mi ho mi mostrava visto delle foto di donne e diceva questa sì, questa mi legava, ma delle donne famose questa... anche, e noi non lo sappiamo perché le foto noi non le vedevamo, però loro le guardavano, ah, e facevano, le vedevano solo loro, 5 stelle, 3 stelle, quindi Cattelan lo sa. Quindi Cattelan, chiamiamolo, chiamiamo Cattelan in diretta, no, diceli. Scusa, allora, vabbè, allora, ma se non lo sa, scusami, ma se lo sanno solo loro, il pubblico non sapeva nulla, non ma è ma volgare, scusa, ma come cosa. Ma le stelline delle donne, questa ma sì, mica, questa no. Ma mica ha parlato male, non lo sa nessuno, se lo sono detti tra di loro. Anzi, gioca era divertente. Ma come gioca? Adesso divertente? Chiamiamo Cattelan, ce l'abbiamo il numero perché è venuto in trasmissione. Sì, però no. Chiamiamolo. Però no. Allora, Daniele, sì, ma ti pare che dobbiamo fare la classifica delle donne, questa sì, questa no, 3 stelle, 2 stelle, adesso 5 stelle? Lo facciamo qua alla radio. Adesso io mostro dal mio telefonino a Marta, così, dei ragazzi che sono passati. Io ti dico sì, sì, no, no, no, e voi da casa potete dire quello ero io. No, senti, no, però... Allora, no, ce la dici, siamo presa con Bettarini. No, non Bettarini è la stessa. Faceva i nomi. Vabbè, no, no, però non, proprio non è lo stesso. Però scusa, intanto Vieri dell'Inter è stato, quindi non è lo stesso. E poi, ma no, ma non si fa, ma dai. Capisco, il messaggio è un po' comunque, cioè, un po'. Cioè, non è che ci sono stato in questo ristorante. Com'è che ho disse mangiato... Melania delle frasi dette da Trump in inglese? Non mi ricordo come si dice, boy, cioè chiacchiera di ragazzo. Sì, sì, per sì, dire era quando i maschi... da locker room, da esatto, da spogliatoio. Capisco che c'è no, un po' questo, però c'è il gioco che noi non vedevamo quali erano, quindi sai. Allora, ma prima che... di dare la pausa vorrei fare una piccolissima segnalazione. Vai. Domenica 23 aprile, se non hai sì, impegni vieni anche tu, c'è sì, una collaborazione tra Radio City e Tempo di Libri, dalle 18 alle 20 al Pavilion Unicredit, una maratona di letture dal tema Resistenze, come la radio e i libri aiutano a resistere. Bello. Pavilion Unicredit di Milano, speaker e DJ radiofonici insieme agli scrittori leggeranno estratti di libri o testi originali. E sai chi dà il via a questa maratona di reading? Il sindaco di Amatrice, perché racconta come Radio Amatrice ha aiutato la popolazione a reagire, dunque a resistere. Il tutto accompagnato dalla musica dal vivo di Saturnino. Ma che bel carosello fatto! Bravissima, tutto ad un fiato. Verranno tutti. Allora adesso una brevissima sì, pausa. Per poi il traffico. Parliamo pare di politica? Sì, beiamo. Però prima traffico. Tra poco, traffico. YouTube. E ci ritroviamo insieme, abbiamo parlato di personaggi controversi questa settimana, anche durante la pausa abbiamo discusso se si possono mettere le stelline, senza i nomi, ma non lo so. Allora, parliamo un po' di politica, Daniele. Sì, dai, finalmente parliamo allora, di politica. Allora, la scorsa settimana era la settimana della canottiera. Sì, poi hai visto che anche sui giornali se ne sono accorti. Sì, hanno fatto, la canottiera di Emiliano. Mi ero dimenticato di quella di Craxi, avevamo parlato di quella di Bossi, sì. Quella di Craxi sotto la camicia in un famoso congresso, mi pare a Bari, ce l'eravamo dimenticati, però insomma. Quindi la canottiera. E questa settimana invece è... Questa settimana è la settimana di Pasqua, la sappiamo. E quindi è la settimana dell'uovo di cioccolato? Sì, è la settimana dell'uovo di cioccolato. Se, tra l'altro stiamo sempre sugli alimentari, perché l'altro ritorno di lui di cui stiamo per parlare sì. Era stato anche lì in una circostanza in cui il cibo in qualche modo c'entrava, anche se aveva ordinato solo una spermuta. Ti ricordi la foto? Ah, lui certo. Dentro al McDonald's. E tutti di loro si è seduto nel McDonald's, tra l'altro vicino a casa tua. Sì, era. Sì, vicino a casa mia. E ovviamente lui è Berlusconi. Gli agnellini. Senti. Salvare la vita agli agnelli e ai capretti, in particolare in questi giorni di Pasqua, è quello che chiediamo agli italiani ed è quello che ha voluto fare anche il presidente Berlusconi, adottando questi tre piccolini che diversamente avrebbero fatto davvero una brutta fine. Allora, gli ascoltatori che hanno visto Giuseppe Cruciani sui social in questi giorni hanno visto che anche lui sì, ha adottato. Esatto. A suo modo ha adottato tre agnellini. Però, apriti cielo, è successo di tutto. Un po' perché tutti hanno sorriso per questo video un po' bucolico con... E poi un sacco di parodie in rete, lui che allattava dei piccoli velociraptor, eccetera. Lui con l'avvocato Agnelli, dopo certo. Gli agnelli. E poi un sacco di reazioni. Lui ha avuto con l'agnellino che sì. Perché lo allattava. Un sacco di reazioni. Quando Berlusconi, qualunque cosa faccia Berlusconi, non lo so. Allora, funziona, non funziona. Non lo so, io vorrei parlare triste, di questo. È allegro. Vorrei parlare di questo argomento con un esperto di politica pop. Talmente esperto di politica pop da avere intitolato, secondo me, per primo, un saggio proprio così. Poi me lo politica ridai, pop. Però. Ah, perché poi lo vuoi leggere? Non me l'hai dato finora. Vabbè, è un libro bellissimo. Allora, lui è un professore di comunicazione politica e ma anche di sociologia della comunicazione. Insegna all'Università degli Studi di Milano, appunto. Ha pubblicato Politica Pop insieme ad Anna Sfardini per Il Mulino. Buonasera al professor Gianpietro Mazzoleni. Buonasera. Buonasera, buonasera. Professore, cosa ha pensato quando ha visto le immagini del grande ritorno di Berlusconi così mediaticamente con gli agnellini? Ma devo dire che essendo un po' abituato al genere non mi sono meravigliato più di tanto, anche se mi è piaciuto il video perché è molto bucolico, come lei diceva. E anche è piacevole vedere questi begli agnellini presi in braccio, baciati, eccetera, quindi è una cosa piacevole. Però devo dire che, ahimè, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, perché quella che potremmo chiamare, variando un po' il titolo del libro, la pet politics, è una politics che viene utilizzata non solo da Berlusconi adesso, ma è stata utilizzata tantissime volte da tantissimi personaggi famosi, intendo dire politici, addirittura se andiamo indietro di parecchi anni, Roosevelt è immortalato a Washington, il suo sì. Monumento è immortalato a Washington con il suo cagnolino, quindi anche il cagnolino è di bronzo, proprio per ricordare questo suo amore per il suo cagnolino, per non parlare poi di Clinton e il suo gatto Sox, che era diventato the first cat, come l'altro era the first dog. Monti addirittura abbiamo visto con sua grande meraviglia quella sera il prendere povero Empi da Bignardi. Beh, Obama anche lui ha i suoi cani, quindi voglio dire, davvero non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Però ecco, quello che c'è di nuovo probabilmente nel caso di Berlusconi è che vuole mandare un messaggio elettorale, questo è stato sottolineato da molti osservatori, cioè ha iniziato un po' la campagna elettorale a modo suo, che è un modo un po' pop, e lui è molto bravo in questo, si trova a suo agio. Ecco, posso chiederle, diciamo, non dico un giudizio, però siccome io stesso, quando vedo queste immagini di Berlusconi, dentro di me, anche la foto da McDonald's, dentro di me c'è da una parte... un pensiero del tipo, vabbè, è un genio, qualunque tipo di immagine veda Berlusconi al centro, funziona, diventa quella parola brutta, virale, fa parlare. Dall'altra parte dico, però sa un po' di visto, sa un po' di triste, sa un po' di ripetitivo. Non riesco a capire se è un po' così tutta la politica pop, cioè in questa fase forse la politica che si fa troppo pop sembra già visto e dà un che di tristezza. Sbaglio? No, non sbaglia, perché effettivamente, come dicevo prima, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. La politica è sempre stata un po' frammischiata allo spettacolo e un po' così alla popolarizzazione, no? Quindi non è il primo Berlusconi e non sarà nemmeno l'ultimo, e quindi c'è qualcosa di ripetitivo. Però voglio dire, Berlusconi quando fa qualcosa, come da Santoro quando pulì, si ricorda la sedia dei Travaglio, ecco. Cioè, un atto che nessuno aveva mai pensato e che lui ha fatto in diretta, e quindi ne hanno parlato. Ecco, lui sa che ogni cosa che fa, un po' fuori dal solito, dal normale, diventerà virale. Infatti è diventato virale anche questo filmato degli Agnellini. Vorrei mostrarvi un altro brevissimo video, mostrarvelo alla radio, di una risposta agli Agnellini di Berlusconi. Allora, adesso io pensavo di adottarle. Siccome sono fortunate, molto, quindi dobbiamo trovare dei nomi che ispirino, insomma, questo sentimento, no? Allora potevamo pensare a Gaia e Gioia. Vabbè, Gaia e Gioia sono gli Agnellini invece che ha salvato la Boldrini. Ormai se non salvi un Agnellino erano non la camera, sei nessuno. Mi pare. Comunque cioè, era un luogo molto un salotto istituzionale. Era completamente diverso, era detto meno questo, firmato. È ancora legale, li vendono ancora nei negozi, si possono ancora mangiare, la carne non è... è ancora legale, non è successo niente dal punto di vista... Sei team Cruciani, mi pare di capire. No, era grandissimo. No, sono, vabbè, insomma, sono per la democrazia. Esatto, e per le scelte di questo. Allora, questa cosa secondo me fa capire una cosa che io ho ritrovato anche nelle pagine di Politica Pop. Professor Mazzoleni, c'è una cosa necessaria in tutto questo, è che ci sia un leader, cioè una personalità già forte in sé che possa veicolare un messaggio pop dal punto di vista mediatico. Certamente, certamente. Infatti in inglese non si dice pop politics, non è molto utilizzato, ma si dice celebrity politics, cioè la politica delle celebrità, no? di questi personaggi che nella fattispecie politica appunto sono leader, capi di governo, di partito e così via. Quindi devono essere qualcuno, perché se lo fa un deputatello sconosciuto non fa notizia, come del resto... nelle leggi del giornalismo. Se lo fa qualcuno che è importante, qualsiasi cosa faccia diventa notizia, e quindi in questo caso, facendolo Berlusconi, un video del genere è diventato davvero un evento politico e interpretato in modo politico, che è poi l'intenzione di Berlusconi. In fondo Berlusconi voleva tre cose, cioè dire a milioni di italiani: guardate, anch'io amo gli animali, infatti ha anche due cani, no? Certo. Mi piacciono come a tanti di voi, perché allietano la vita di tutti. La seconda cosa che io penso lui abbia voluto dire è che in politica mi tocca molte volte essere cinico e duro, ma in realtà ho un cuore tenero, e questo piace a una larga fetta di elettorato. E poi in fondo vuol dire: io sono uno di voi, che è il messaggio pop, ma anche populista, se vogliamo, certo. E quindi è un messaggio politico, assolutamente. Ecco, ma da questo punto di vista, dal punto di vista della comunicazione pop politica, può essere che Donald Trump sia l'apice e contemporaneamente anche il capitolo finale di una fase? Finale non direi, perché non c'è mai fine a questo tipo di fenomenologia, però ha raggiunto vette altissime, si fa per dire, perché poi uno può anche criticare. Beh, lui da celebrity che era televisiva, già era miliardario, però era più conosciuto per dopo 12 anni di, di Apprentice, era più conosciuto come un personaggio della televisione, e quindi aveva una sua popolarità, un suo capitale di popolarità che anche Berlusconi aveva, anche se non era homo televisivus direttamente, però gestiva le televisioni quando è sceso in campo. Quindi infatti si è sottolineato questo parallelo tra Berlusconi e Trump. Poi le due personalità sono molto diverse, ovviamente. Sì, però è vero, Trump ha rappresentato un apice per questo itinerario, diciamo, pop della politica americana. Grazie professor Mazzoleni. Politica Prego. Pop, il mulino da Porta a Porta all'Isola dei Famosi è il sottotitolo e c'è anche un bel gabibbo in copertina, così capiamo bene di cosa si tratta. Buona serata. Grazie professor Mazzoleni, torni a RadioTube a trovarci, a presto. E adesso, io entro ufficialmente in una fase complicata. Ah sì, è vero. Abbiamo un ospite con l'apostrofo un ospite. Che dire? Ce la fai, Daniele? Io non lo so. Sicuramente prima ho bisogno di una pausa. Ok, una pausa e poi sentirete che ospite. Radio Tube. Non ti trucchi e sei più bella. Le mani stanche e sei più bella. Con le ginocchia sotto il mento, fuori piove a dirotto, qualcosa dentro ti si è rotto e sei più bella. Sovrappensiero, tutto si ferma, ti vesti in fretta e sei più bella. E dentro hai una confusione, hai messo tutto in discussione, sorridi e non ti importa niente, niente. Sei un'emozione, ti cambia anche il nome. Questo pezzo, cioè, non è che mi piace, ma è come se mi riempisse quando lo ascolto fino a ogni fibra del mio essere. È pazzesco e non mi sono ancora stancata di ascoltarlo. Un sacco di pezzi di Sanremo dopo un po', vabbè, sono un po' consumati come tutti i pezzi che durano poco. Invece questo è sempre più bello, Daniele. Sai che dovrai fare l'intervista da sola? Non ce la fai tu? No, perché allora, non gliel'hai spiegato. No, non l'ho ancora detto. Intanto posso dire bentornata a Radio 24 a Paola Tucci. Grazie, bentornata. Mi fate molto ridere. Paola, no, ma è vero, adesso te lo spieghiamo. Ah, non hai vergogna, lo dico? Ma sì, allora, puoi dirlo. Lo diciamo aiuto. Così in diretta. Sicuri, eh? Gli ho detto, guarda, viene Paola, facciamo così, facciamo... E lui è... No, non si può perché... No, non posso, falla da sola. In teoria, no, i giornalisti, conduttori, non so bene, devono sempre mantenere un ruolo professionale, no? Quindi questa intervista la farà solo Marta Cagnola, perché io in quanto fan non posso essere... Non so se ce la faccio. È vero, è stato così, ho detto, io non so se ce la faccio. Ma scusa, io ogni tanto dico delle cose... Ma è complicato da spiegare, non ci riesci. Paola mi capisce, proviamoci. Tu parti tu, vai. Allora, voglio che intanto bello, sapere però. Che... Grazie. Hai visto? È proprio così. Senza vergogna. Secondo me traspare un po' adesso. Sì, sei un po' diventato... Lo so, ho capito. Alla radio non si vede, alla radio non si vede. Di lavoro mi occupo di altro, per cui posso avere delle passioni musicali. Ma certo, ma certo. Vai. Paola, quando partono le note di questa canzone, a te cosa torna in mente? Guarda, stavo proprio pensando a quello, perché ce l'avevo in cuffia e sorridevo perché mi sono ritrovata sul palco del festival. Questa canzone è fortemente legata a quei momenti, ai quei tre momenti in cui sono uscita sul palco e a ogni verso, diciamo, io ricordo tutto ed è stato bellissimo per me, è stato davvero un festival di Sanremo emozionante, forse il più bello che ho fatto, il più pieno, il più messo a fuoco, ecco. Devo dire la verità, adesso in genere i cantanti quando fanno i dischi dopo un po' li mollano, nel senso che li hanno ascoltati, li hanno riascoltati centinaia di volte, però questo mi fa piacere ascoltarlo, davvero non mi stanca, certe volte lo ricanto pure così per strada, a casa, non so, è un bel effetto questo, sono molto contenta, vuol dire proprio che ha centrato esattamente quello che a me piace fare, quello che volevo fare, ed ero felice. Ero semplicemente felice anche di essere lì, no? Di portare questa canzone che per me ha un significato, insomma, se si conosce un po' il mio percorso, ha un significato profondo. È in pratica, diciamo, la conquista di quel mio Merollo stesso che avevo scritto, quell'autobiografia che avevo scritto anni fa. Perciò ero felice. Però poi quello che è successo dopo è che è come se fosse quasi un inno corale, no? Anche un po' è l'energia del video. Ma lo senti anche tu da uomo? Perché noi da donne l'abbiamo sentito. Allora, non so dire se lo sento, ma lo vedo. Cioè, lo vedo nelle foto sui social, quando fai gli in store, lo vedi quando parte la canzone. Cioè, è come se fosse partito da te e poi è diventato una roba